benvenuti. Dai, che cioè, mi sono preparato. Allora, questo sarà l'episodio numero 31, registrato tipo 2 mesi fa per voi che ci ascoltate. E con me ci sono solo Jacopo e Andrea. Forse si aggiungerà Roberta durante, ma non lo so. Jacopo è in qualità di esperto di film d'autore, perché questo certo. È un film d'autore. E Andrea è in qualità di esperto dell'autore e io sono lo stronzo che ha visto i film. E questa puntata parliamo di It. È un po' tardi, lo so, perché mi sa che il capitolo 2 è uscito un po' di tempo fa. Tipo, quando è uscito il 2? Boh, diverse settimane fa. Settembre, no? Sì, può darsi. Fine settembre. Sì, fine settembre. E noi registriamo in realtà non troppo in ritardo, ma un po' in ritardo, sì. Però va bene, fa parte del podcast. E, allora, intanto It, appunto, ho detto il secondo capitolo perché tutti voi saprete che sono usciti 2 capitoli, e uno nel 2017 e uno nel 2019. In realtà It è appunto tratto dal libro omonimo di Stephen King, pubblicato nel 1986. E questi due non sono il primo adattamento cinematografico. E non so se cominciare subito da questo o partire da qualcos'altro. Allora, intanto, tra di noi, solo Andrea ha letto il libro tempo fa. Dicendo anch'io, che... ma non me lo ricordo per niente. Allora sono io l'unico stronzo. D'altronde c'è da dire che il libro non è che sia piccolissimo. Quindi io in realtà l'ho comprato fisico, l'ho comprato digitale, perché ho detto me lo leggo, e l'ho comprato, ma ancora lì da anni, quindi... Però dai, è utile se vuoi ucciderci qualcuno. Sì, tiro l'ebook reader su qualcuno. allora, i film sono 2, ma in realtà anche il libro, se non vorrei dire, se dico cazzate sul libro interrompetemi subito, però il libro dovrebbe essere diviso in 2 parti in realtà. Più o meno. Quindi... che senso? Cioè... Cioè, la trama è divisa in 2 parti. Ah, la trama sì. Ah, sì, sì. Quindi in realtà è... cioè, secondo me è coerente il fatto di aver scelto 2 libri... cioè, 2 capitoli per una volta nella vita hanno fatto bene a dividere la storia in 2 parti. Dicevo, non è il primo adattamento cinematografico, infatti c'è stata una prima pellicola... per la televisione, mi pare, come miniserie televisiva, uscita nel 90, credo, in America, e è stata portata anche in Italia, infatti io l'avevo vista in italiano, quando ero piccolo, e anche questa... Io l'ho vista... Scusa? No. Vai. No, l'ho vista in italiano, però alcune scene erano quelle... diciamo eliminate, quindi quella era in inglese, quindi era mezzo italiano mezzo in inglese, quindi non ci ho capito un cazzo di quel film. Poi ero pure piccolo, quindi non sapevo, cioè c'avevo sto DVD tipo mezzo falso. Anche quel film è diviso in 2 parti, mi pare. Sì, cioè, era stato rilasciato in 2 parti. È comunque molto più corto, però è anche quello diviso in 2 parti. E questa, per chi degli ascoltatori non conosce la storia, allora immagino che tutti sappiano più o meno It, che cazzo è un clown ed è un film horror, però per chi non conosce la trama in realtà bisogna anche fare delle precisazioni, nel senso che a mio parere It non è un film horror e basta, e poi magari spiegherò perché. Il problema è che la storia è divisa in 2 parti appunto perché c'è una prima parte ambientata negli anni 80, 88 mi pare, nella città di Derry, ed è la parte in cui i protagonisti sono appunto, vengono introdotti i protagonisti che sono dei ragazzini un po' emarginati che si chiamano i loser, e quindi il gruppo dei perdenti, che appunto si ritrova ad affrontare... questo clown che ammazza i bambini, fondamentalmente. O il mistero dei bambini scomparsi, però insomma non ho fatto spoiler perché sapete tutti di che cosa sto parlando. La seconda parte invece si svolge 27 anni dopo e ha gli stessi protagonisti ma adulti. Quindi è così sia nei film sia nel, appunto, nel libro originale. La differenza fondamentale tra la miniserie e il film che è uscito adesso, almeno la prima differenza di cui voglio parlare, è il fatto che intanto il film, i due film usciti adesso sono più curati da un punto di vista sia di budget sia di cast, però la miniserie televisiva a me è piaciuta parecchio, mi sono anche cagato sotto notevolmente, però non era male. Dai, Tim Curry era figo. Esatto, il problema, secondo me, è che quando è uscito ovviamente non era l'epoca giusta per mettere, soprattutto in televisione, tutte le scene e le cose che tratta, penso anche il romanzo, perché da quello che leggevo il film nuovo è più vicino al romanzo. Ci sono dei temi un po' tosti che nella miniserie televisiva hanno dovuto censurare. Ed è un po' secondo me il film, quello degli anni 90, è un po' una roba più horror e basta. Mentre il film di adesso è un po' più profondo. E poi non lo so, voi avete visto il primo capitolo, potete anche... Cioè, comunque, già nel primo capitolo si vede questa cosa. No? Boh, forse? Boh, sì. Più o meno. Sì, beh, ci sono alcune cose... Cioè, alcune... Un po' più... Cose omesse o cambiate perché non, magari non potevano essere riprodotte sulla pellicola, magari. Sì, cioè, ci sono state molte censure. Allora, è arrivata Roberta nel frattempo. Ciao a tutti. Ciao. Abbiamo solo introdotto i film di It. Ok. E basta. E stavo dicendo che, appunto, rispetto al film, all'adattamento passato, questo nuovo è molto più fedele al romanzo, ma è facilitato dal fatto che, uno, è una roba che hanno distribuito al cinema, e due, adesso non c'è più l'esigenza di fare tagli, cioè si possono far vedere alcune cose che prima non si potevano far vedere, o prima comunque non erano, cioè avrebbero reso il film non adatto alla maggior parte del pubblico. Allora, perché ho detto che secondo me It non è un horror in senso stretto? Voi lo sapete, perché avete visto il film. No, nel senso che Stephen King, a mio parere, è stato furbo. Allora, intanto, tutti i meriti relativi alla trama in questo film, secondo me, non hanno valore. Cioè, non sono stati bravi, perché comunque hanno semplicemente copiato il libro. E vabbè, ci sta, Però tutti i meriti, tutta l'invenzione, la fantasia è di papà King. Non c'entrano un cazzo gli autori della sceneggiatura. E sono stati solo bravi a riportarla fatta bene. E, allora, dicevo che non è un film horror nel senso stretto, perché appunto King lavora sulle paure delle persone, e non paura in senso generale, ma paure reali che a volte sono anche condivisibili. E quindi di fatto It non è solo un film horror, è anche, secondo me, un film introspettivo su affrontare le paure e un po' crescere. E, per quanto rimanga nel genere horror, perché appunto c'è un sacco di suspense, e, insomma, sono cose strane, e c'è un sacco di splatter, e tutto quello che volete metterci, rimane comunque, secondo me, un film molto introspettivo. E secondo me sono stati bravi, cioè è stato bravo il regista, che è lo stesso, Andrés Muschietti, che è un regista argentino, ed è stato bravo, secondo me, a lavorare molto con la suspense e il... cioè non è un horror fatto un po' da cazzo, tipo un po' a cazzo di cane, ma è un horror un po' studiato, in cui basta anche un corridoio buio per farti venire un po' di ansia. Tutto qui. Sì, diciamo che la parte più interessante di sti film, cioè almeno del primo, non so il secondo, è che le scene più che ti mettono più ansia, più tensione, sono quelle in cui It non si vede, cioè in quelle proprio in cui esatto. Poi lui lo fa vedere molto, eh. Mi ricordo che in quello vecchio non si vedeva così tanto, però lo fa vedere, cioè, in modo studiato, non a cazzo di cane, solo per far vedere uno che insegue la gente. Ma una cosa, nel vecchio ti ricordi se la trama alternava tra passato e presente o era come nei film nuovi? Era prima quello tutto il passato e poi tutto il presente. Secondo me era... però. C'erano comunque richiami al passato, perché ovviamente fa parte del coso, però è veramente diverso, cioè ci sono un sacco di differenze. Perché mi ricordo che iniziava con il protagonista che sentiva, insomma, le notizie della sua cittadina, e c'era un po' di flashback, e c'era uno di loro, diciamo, di questi ragazzi cresciuti che si suicida proprio all'inizio del film, di quello vecchio. Quello nuovo non è così. Ok, perché, esatto, perché in quello nuovo non vedi niente, insomma, del futuro, del perché. E questo, secondo me, è un pregio del libro, che in questi film nuovi, per forza di cose, non è, cioè, non hanno riportato, insomma. No, cioè, no, il fatto di vedere subito l'effetto di It su questi tizi, cioè sulla versione adulta di questi bambini, insomma. Non ho capito, però non ti ho seguito. Cioè, una cosa figa del libro è che entrambe le timeline vanno verso, diciamo, la, come posso dire, verso il climax insieme, e l'inizio del libro, come anche della vecchia serie, vedi subito, cioè c'è questa specie di presentazione del cattivo vedendo gli effetti che ha avuto su questi ragazzi, perché uno di loro si suicida semplicemente perché sente che è tornato, capito? Sì, sì, no, non è così, però è... cioè, non è così, e questo lo rende migliore il primo, perché è separato. Cioè, perché è un film a parte. Forse sì, no? Forse sì, però nell'insieme non lo so. Vabbè, non ho visto il secondo, quindi saprei. Nell'insieme non lo so, però in realtà il secondo... gira molto bene, perché alla fine è lineare, ci sono tutti i flashback, ma non c'è, cioè, nel senso, comincia subito con non comincia subito con ha un inizio e una conclusione a sé, cioè tu potresti anche vedere, no, non potresti forse vedere il secondo senza aver visto il primo. Però potresti vedere il primo e basta, probabilmente. Sì, forse sì. E infatti il primo, non avendo questo inizio così, è un po' un film a parte. Cioè, lo rende un film a sé. Poi tu sai già che ci sarà un capitolo 2, e infatti c'è stato, però questo è un'altra cosa. No, però sì, ho capito cosa dici. No, in questo caso non è così. E... secondo me hanno anche allungato un po' troppo la broda per essere vicini al libro, perché il secondo dura veramente tanto, mi pare che duri tipo 3 ore. Ah, wow, che troia. Davvero? Ah. E... no, forse però io... boh. Non so. No, sì, dura tipo... scusa, Salla, mi sono persa, sì. Dura o no? Tipo 2 ore e 40, una roba del genere. Sì, l'ha visto, però. E... vabbè, e... boh, tornavo... dura 169 minuti. Cavoli. E, infatti io dopo un po' mi sono rotto il cazzo. Comunque... no, vabbè, tornando a bomba sulle differenze. E cosa? Appena questi 169 minuti o no? Non lo so, per me nessun film che dura più di 2 ore vale la pena di essere guardato. Però prevenuto, a me il secondo è piaciuto tanto quanto il primo, in realtà. Quindi però a me piace It perché non mi piace It, nel senso che è un film horror. A me normalmente i film horror fanno schifo, e anche questo in realtà come genere non mi piace tantissimo. Mi piace perché in realtà è molto umano, nel senso che è psicologico, le fobie che ha, ma più che psicologico, mi piace molto la crescita, cioè il fatto che il fattore chiave di questo film sia affrontare le proprie paure. E quindi non è che ci sia, cioè ok, c'è tutta la manfrina di la tizia che bla bla bla viene molestata eccetera, c'è o il tizio che ha un ciccione di merda e viene picchiato dai bulli che ha ragione, no, e cioè è interessante fino a un certo punto. Secondo me, a me la cosa che piace molto è il fatto che il protagonista cresce come se fosse un libro fantasy e c'è un'evoluzione, una favola e c'è l'evoluzione del protagonista, tutto qui. E, no, dicevo appunto alcune fobie sono molto forti e magari più o meno comuni, ma altre sono molto banali, cioè il fatto che per esempio come si chiama il tizio è ipocondriaco e Eddie è ipocondriaco e è una roba abbastanza banale e secondo me nel primo film tutti i bambini sono eccezionali, cioè a parte il cast di famoso forse c'è solo, come si chiama, quello di Stranger Things. Ah, dici Wolf Finnart. Esatto, Finn Wolfhard. Finn Wolf. Però anche gli altri sono veramente bravi, sono tutti molto molto bravi. Sì. E riescono appunto a secondo me, a parlare bene di questo tema. Anche la ragazza. Sharp Objects ha fatto pure quella. Cioè, la ragazza deve far vedere che suo padre la violenta di fatto, però in modo, cioè lo fa vedere senza fartelo vedere, questo è bello. Poi anche, cioè la scelta comunque è molto bello, anche la regia e la sceneggiatura che c'è dietro, mm-hmm. Però anche lei come interpretazione è veramente valida e basta. Poi vabbè, Finn Wolfhard è l'attore migliore, ma fa proprio la parte della testa di cazzo, cioè la parte più testa di cazzo che si possa prendere, lo stereotipo del bambino. Però in realtà sul finale anche lui riesce a far vedere che comunque l'attore lo sa fare, anche se appunto è un ragazzino. E il secondo secondo me è valido uguale, anche perché il cast nel secondo è molto più conosciuto, è molto più grosso, a partire da James McAvoy, che odio alla follia perché ha fatto, cos'è che ha fatto, Wanted, tipo. No, perché è bellissimo Wanted. Cioè, curva i proiettili, salla. Però, dai, a parte lui, anche loro comunque cos'è, anche come si chiama, William Thomas, quell'altro che è un comico abbastanza famoso, Bill Hader, esatto. Jessica Chastain, cazzo, nomi errori. Sì, sono, cioè, anche se nel secondo il cast è molto più conosciuto, e nel primo devo dire che comunque gli rendono onore alla grandissima. E, boh, detto questo, in realtà non ho nient'altro da dire sulla trama, e, ho già parlato abbastanza, forse, di tutto. Appunto, mi ruga il cazzo che siano 2 ore e 40 più altre 2 ore passa del primo film, però sì, non posso che consigliarlo. C'è anche nel secondo film, c'è anche Stephen King che fa una parte, è abbastanza lunga anche, ed è molto bravo, sì. E c'è per un'intera scena, ed è veramente, non è tipo Stan Lee. Stan Lee che faceva la cazzata, lui in teoria, cioè ha un minutaggio un po' più lungo, non è ovviamente... Ma davvero? Sì. E... No, guardalo Andrea, perché, cioè, secondo me ti piace, sia perché so che ti piace Stephen King, sia perché il film appunto è molto bello. E il secondo, come forse voi sapete, sì, perché avete letto i libri, è più fantasy, è più un... Cioè, rimane comunque il tema horror, ma è più una roba tipo i Goonies, la ricerca del tesoro, eccetera, con tutto il fatto che devono cercare i cazzo di cosi. E... Ma è più religioso del vecchio? Senza spoilerare. Cioè, è un po' più... Perché il vecchio film finiva con praticamente loro che vanno sotto terra e ci sta un ragno, che col libro c'entra poco, diciamo. No, un po' sì. No. Ok, in questo è un po' più, diciamo, galattica la cosa, un po' più filosofica. Allora, sì e no. Cioè, se ce lo vuoi vedere, sì. Perché... Ok. Poi in realtà non so, non credo sia come il libro, il finale. Però, appunto, se ci vuoi vedere un po' di storia, di lore, sì, c'è. Cioè. Però non è... cioè, secondo me semplicemente ricalca il tema del primo. Nel senso che okay. alla fine nel senso finale. Alla fine, nel senso secondo film, alla fine loro hanno le stesse paure, le stesse fobie. Cioè, fa vedere loro cresciuti con gli stessi problemi che avevano da piccoli, di fatto. Mm. Anche quello è interessante. E nel senso che non hanno gli stessi problemi esatti, ma hanno evoluzioni delle fobie che avevano da piccolo. Quindi, per esempio, il tizio ipocondriaco è rimasto ipocondriaco, però lo nasconde meglio e fa un lavoro che, non so come dire, gratifica la sua fobia. Cioè, nasconde la sua fobia, forse. Ah, ok. E, cioè, è molto realistico come a mio parere, come visione della cosa. È come se appunto tu da bambino avessi un problema molto grave di appunto di fobia o una fisima tua e crescendo hai capito come nasconderla per vivere nella società e quindi c'è, esiste Bello. Ancora, ma è sepolta dentro la tua personalità. In quello vecchio era un po' più, diciamo, sottile la cosa, perché era tutto dietro a questa idea che chi era rimasto, cioè uno di loro, era un fallito e quelli che se ne erano andati invece avevano fatto successo, quando poi in realtà erano tutti, diciamo, avevano tutti quanti cercato di, come posso dire, di correggere troppo il loro... Sì, sì. Le loro mancanze, i loro difetti. No, cioè si può leggere questa cosa, ma non è assolutamente così. Nel senso che mi Mike, piace un po' di più questa, diciamo. Mike un po' che rimane alla fine è fallito perché è rimasto, ma in realtà anche loro sono palesemente falliti. Cioè non fanno finta di essere migliori. Si vede subito che hanno dei problemi. Ok. No, secondo me è molto bello. Poi appunto io non ho letto il libro e non so quanto abbiano cambiato. Basta. Eh? Un po'. No, un po', però dico anche come filosofia io. Perché alla fine questa magari è un riadattamento, ma anche magari la filosofia del libro era questa, cioè di far vedere loro come delle seghe. Cioè di fargli rispuntare gli incubi che avevano da giovani. Vabbè. Non so, Andrea, tu che ti ricordi? Perché a me il libro sembrava molto più tipo male mondiale, cioè male generico, cioè una cosa più alla... boh, alla Satana, non lo so, cioè meno psicologica. Tu che ti ricordi? No, io mi ricordo che è più intrippante, cioè sì, più psicologico rispetto sicuramente a... cioè la riproduzione vecchia del film eccetera, perché questo, vabbè, questo nuovo boh, a parte non l'ho visto il secondo, quindi, però già alcune cose hanno cambiato come dicevo prima, no? Perché non possono essere riprodotte, cioè la scena finale del primo, dico, dove loro quando pensano di aver ucciso It se ne vanno. Cioè c'è una scena lì, non mi ricordo bene, ma nel libro tipo fanno sesso con ah sì, cioè tutti fanno sesso con Beverly a un certo esatto, punto c'è cioè questa cosa ovviamente è molto no vabbè, ma non c'è, ma anche perché non potresti mai, a parte che secondo me cioè io non l'ho vista, ma sembra più un trip mentale di Stephen King che una roba perché sì, lui sì, vuole sì. fare vuole mandare un messaggio, ovviamente il film deve, cioè vuole, non deve, però vuole anche dire qualcosa di più, cioè non dire qualcosa di più, ma vuole un po' tirare le file, non semplicemente celebrare il genio di Stephen King, vuole dare un, vuol raccontare una storia, non è che vuol fare un, vuole masturbarsi sulle visioni di uno scrittore. Che brutta immagine. E, che tra l'altro si faceva di cocaina in quel periodo, mi sa. Sì, cioè, adesso appunto, cioè, secondo me molti, molti elementi sono rimasti, ma cioè il fatto che per esempio adesso io leggo qua, ho la wiki sotto e leggevo un po', mi spiluccavo un po' la trama mentre voi parlavate, diceva, per esempio dice, ecco. Bill è uno sceneggiatore di libri horror ed è sposato con l'attrice, vabbè sti cazzi, Beverly vive a Chicago ed è una, è sposata con questo che è uguale a suo padre tra l'altro, e, ah. ed è rimasta questa cosa qua, cioè questa cosa sì, qua pure che Eddie. Esatto, cioè questa cosa qua che c'è nel libro è uguale al film, quindi mi viene da pensare che alla fine non abbiano cambiato così tanto nel significato della cosa, cioè il fatto di averli fatti crescere ma non crescere. E pure Eddie è sposato con Nati uguale a sua madre. Esatto, ed è ancora ipocondriaco, lì di qua dice dirige un'azienda di noleggio, in realtà wow. nel film non fa quello, ma fa una roba ancora più da ipocondriaco. E poi c'è Ricci che fa lo stesso, fa il comico, e Ben che è famoso ma è uno sfigato di merda, e Mike. E Stan non dice, non, nel libro, nel film non c'è quasi per niente in realtà. Cioè, nel senso, c'è ma non c'è molto quello che fa nella vita, c'è solo quello che fa nel film, nella storia, nella trama che è importante. E basta. Mike? Ce l'hai lasciato, poverino. No, Mike fa il talk show, no? Il talk show? No. Come talk show? Davvero? Sì, Mike. Davvero? Ah no, no, Mike il nigga. No, lui è il rimasto nigga. Derry e non fa niente. fa il libraio, ma non... Cioè, palesemente si vede che la biblioteca non... Ah, non è okay. altro che niente. Invece nel vecchio film faceva tipo il poliziotto, è diventato, che faceva, non mi ricordo. Non so. Però nel romanzo lui era appunto bibliotecario, leggo ora. E sì, ecco, infatti vedo adesso, sì, mi ricordo un po' qualcosa dopo aver letto. Vabbè, diciamo che questo aspetto è più simile al libro. E niente, quindi secondo me It è bello, indipendentemente da appunto dal piacere o non piacere il genere, perché sia perché la storia è una bella storia, e sia perché è resa bene in questi due film. Poi c'è la rottura di cazzi, che sono due film lunghissimi, però quello magari è solo un problema mio. E basta. Beh, 4 ore di film. No, quant'è? Cinque ore. Cinque ore oppure 1300 pagine di un libro. La scelta. Ah, certo, però ecco, non erano... No, allora, se non mi ricordo bene il primo, però non mi pare ci fossero scene a cazzo di cane per allungare la storia. Mi pare fossero più o meno tutte coerenti, cioè non troppo... Quindi probabilmente, cioè, io non avrei tagliato nient'altro. Resta il fatto che sono onestamente lunghi. Mm-hmm. E basta. Ok. Dai. Abbiamo fatto venire voglia di vedere il secondo? ce l'avevo anche prima voglia di vedere il secondo, però sì. Io forse lo guarderò, dai, mi è tornata un pochino. No, ma sono anche molto bravi gli attori, c'è poco da dire. E... Poi... Spoiler, Harry c'è? Harry c'è. Il capo dei bulli? Sì, Harry c'è. Nel secondo c'è? Sì, c'è nel secondo. Ok. Non fa tante scene, non ha tanto minutaggio, ma c'è. Cioè, non ne ha neanche più. Beh, perché nel primo sembra che lo fanno schiattare, infatti ci ero rimasto male, però. Infatti schiatta. Però non schiatta. Ah. No, non schiatta, in realtà. Vabbè. Ma lo scopri tipo subito. Allora. Perché all'inizio fanno tipo il carosello di tutti i protagonisti, e c'è anche Henry, che però non è un protagonista. Però aveva un ruolo, se non sbaglio, nella miniserie aveva un ruolo molto più grande, Harry. Come nel libro. Lui va... Sì, lo mettono nel tipo... in psichiatria, poi evade grazie a It e va di nuovo a cercarli. Quello nel secondo, però. Sì, sì, sì. No, ma io dico anche nel primo. Nel primo ha un minutaggio non troppo grande, ce l'ha, però non è... Però secondo me è molto interessante nel primo, nel secondo no. Nel secondo è pazzo e basta. E... Dimmi, Jacopo. No, per la rubrica... Quindi quando, beh, quando... Sì, sì, no, io non ho nient'altro da dire, non so neanche, non ho guardato neanche niente di dati di come è andato sto film, e... però spero sia andato bene, perché alla fine mi è piaciuto. È un bel film, è un bel riadattamento. Non lo so come è andato, sinceramente. Aspetta. Vabbè, intanto che tiri fuori i numeri, e... Facciamo? Sì, fai. Allora, se questa puntata esce quando deve uscire, ieri, che per noi è fra diversi giorni, è uscito Doctor Sleep. Oddio! Madonna, io bravo, Andrea, vedo che sei sul pezzo, cazzo. Andiamo a vederlo. Ah no, è già uscito. In pratica è la storia di Danny. Danny! Danny! Il famoso bambino autistico di, mi dissocio, di Shining, che è un altro film tratto da una storia di Stephen King, tra l'altro mi sa una storia breve. Tra l'altro un film orrendo, se devo dire. Penso sia uno dei più bei film tratti da libri di Stephen King della storia. Uno dei film più brutti della storia. E a Stephen King ha fatto schifo, quindi. No. Giustamente. Perché, esatto, perché a lui piace la Torre Nera. Bellissima la Torre Nera. Ma io non mi sono fatto un'idea di questo film, però la premessa è molto frizzantina, mi piace questa idea, non lo so. Non mi ricordo se è proprio un libro, cioè sì. Se Stephen King ha fatto un libro su questa storia. Sì, sì, Dr. Sleep c'è anche. Dr. Sleep c'è, ok. Sì, sì, sì. La mia domanda è questa, siccome mi sembra una cosa abbastanza rischiosa, sono curioso, invece di fare il solito box office, facciamo un'altra... banalità che abbiamo già fatto, quale sarà la differenza in percentuale fra il punteggio della critica e quello del pubblico su Rotten Tomatoes? L'abbiamo già fatto per un altro film, diciamo più facile, cioè Godzilla 2 King of the Monsters, quello nuovo, però per questo non c'ho un paragone, capito? Non posso dirvi, ah, c'è quello prima c'è questo. Cosa? Chi è il regista? Il regista? Chi c'è nel cast? Mike Flanagan. Il cast è Ewan McGregor. Fanculo. Perché, povero? Rebecca Ferguson, grandissima. Vabbè, ciao. È bellissima Rebecca Ferguson, cazzo. E gli altri non ricordo. Ah, cazzo, c'è... Mona Tom Hanks. C'è, no, l'indiano di... Westworld, mi sa. Solo, Ferguson è figa solo quando limona Cruise. Ci arriveremo, Cruise. Quindi ecco, secondo voi quale sarà la differenza? Io non lo so, sinceramente. Ma ti devo dire anche chi è prima o solo la differenza? No, no, bassa differenza assoluta, non perché importa. Secondo me la critica lo premia e il pubblico no. Di un buon 30%. Catroia, ok. Io dico 22. Paolo Cannone. 17. Se da Rio tu volessi sponsorizzare. Ti metto in mezzo. Cosa? Che senso in mezzo? Diciamo 20%. Ah, ok, non avevo capito. 20%, va bene. Quindi Andrea molto, molto appacificatore, Salla molto polemico. Come va al bene. Solito. Come al solito. Niente, tutto qua, non ho idea di cosa sarà sto film, quindi ho fatto una cosa un po'... Va bene. Ok. Non abbiamo ancora... Vabbè, lo dirò in altre puntate che usciranno prima. che non abbiamo registrato. Che l'abbiamo registrato. Che imbarazzo. E va bene, no, dicevo, un film che tanto io non andrò a vedere e niente, grazie per averci seguito fin qua, scusate il pippone, ma ci tenevo. E noi ci vediamo settimana prossima con una puntata voluta da Jacopo. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.